Bentornati a questa nuova puntata di G-Cookies. Grazie per l'attesa, perché come al solito siamo stati leggermente lenti, ma stiamo cercando di mantenere il passo. Abbiamo patito il caldo, perché qui a Torino ha fatto tipo 40 gradi, e in Sardegna da te, Giuliano? 45, percepiti anche 53. Perfetto, benissimo. Quindi ci siamo sciolti e abbiamo pensato: chiudersi in una stanza dove non ci sia rumore con un paio di cuffie sulla testa con questa temperatura è no, punto. E quindi abbiamo lasciato perdere. E visto che registrare con la finestra aperta e senza cuffie significa che il contenuto del podcast sarebbe stato il traffico sotto casa nostra, abbiamo detto vabbè, non importa. Oggi che è quasi Ferragosto, il caldo ha mollato, sembra di essere a fine maggio ed è una figata pazzesca. Bene, siamo contenti di essere tornati. Sì, sì, sì, oggi puntata diversa dal solito, perché oggi, signori cari, non si salda, non si monta niente di elettronico, non ci si sporca le mani e non ci si brucia. Oggi tastiera e monitor e basta, anzi... E quasi non si scrive, quasi. Verissimo, quindi mouse e monitor. Anzi, io direi che questa puntata potrebbe essere interessantissima per chi ha figli in età scolare, penso 6, 8, 10. 10 anni, dico bene? Ma guarda, direi anche dai 4, perché poi c'è una cosa che non mi ricordo come si chiami, però vedremo di scovarla, anche dai... Molto molto bene, allora chissà se avete già capito di che cosa stiamo parlando. Oggi parliamo di sistemi di programmazione visuali, cioè non devo scrivere nessuna riga di codice, ma devo spostare blocchi e blocchetti qua e là per fare delle attività. L'esperto qui è Giuliano, che ha studiato tantissimo e che ha tirato fuori una scaletta di 12.000 parole circa. Di conseguenza, mettetevi comodi, il podcast oggi durerà quelle 6-7 ore e mezza, ok? Minimo, poi ho studiato tantissimo, dai delle aspettative che poi magari non sono così. Fidati. Sì, sì, bene. Allora. La questione fondamentale di oggi qual è? Che farlo passare come un linguaggio o un metodo per bambini per scrivere programmi, tutto sommato vedremo che oltre ai bambini potrebbe anche interessare agli adulti poter iniziare a approcciare la programmazione in un certo con un certo metodo, che è quello, diciamo, più visuale, cioè sa come si programma, sa che ci si mette davanti alla tastiera e si scrive il codice riga per riga, cercando di dare le istruzioni e cercando di non fare errori, bestemmiando e tirando madonne perché manca la virgola, il punto e virgola, non ho indentato giusto. La cosa bella è che ogni linguaggio di programmazione ha i suoi modi per il quale si devono tirare madonne, perché se tu in Python sai perfettamente che il punto e virgola non c'è, ma devi indentare. Se programmi in Arduino c'è il punto e virgola, e l'errore che capita quando ti dimentichi il punto e virgola non è mai guarda che ti sei dimenticato il punto e virgola. Già mai, ma ci mancherebbe. Ti dice no, guarda che l'istruzione alla riga X, ma e tra l'altro quella sbagliata è quella sopra, perché il punto e virgola manca sopra. È fantastico. Cioè, però posso dire che io il punto e virgola mi sta lo non mi sta simpatico. Lo posso, perché a me proprio il punto e virgola non mi sta, cioè perché deve esserci il punto e virgola? Che il compilatore, se non c'è il punto e virgola, non sa che caspita fare. Ma che faccino dei compilatori più intelligenti. Infatti è uscito Python. Infatti, ma cioè, voglio dire, ma non si scriveva neanche nel Basic del Commodore 64 il punto e virgola, si faceva in return, non in invio, return. Giusto, e è vero. Era finita lì. Che cavolo. Forse anche in Pascal, ma non me lo ricordo. Io, guarda, sì, secondo me sì. Sì. Il punto e virgola, secondo me, è una roba da C. Sì, mi pare proprio di sì. Direi che ora noi stiamo imprecando su queste cose, e questi sistemi qua, queste cose non le hanno. Perché sono assolutamente... attenzione, io ho usato uno di questi sistemi che vi presenteremo oggi con grande soddisfazione e funziona in maniera perfetta. Quindi non è per chi non programma mai. tutti e sono veramente, veramente comodi. Vai, scusa, ci ho interrotto, ma tanto sappiamo perfettamente che noi facciamo i nostri bei voli pindarici. E non sarà il primo né l'ultimo. Dunque, allora, si basa su un progetto del MIT, dove tutti i nerd avrebbero voluto studiare dagli anni 90 al 2000, forse anche oltre, che riguarda un approccio alla programmazione visuale, come dicevamo. In pratica si è studiato un metodo per fare in modo che i bambini che non hanno concetti o che non conoscono i paradigmi della programmazione, come di programmazione si occupa, si avvicinassero più che alla programmazione, perché poi secondo me lo scopo finale di questo linguaggio qua, che è Scratch, non è tanto la programmazione, cioè imparare a programmare in un linguaggio, ma è quello di imparare a ragionare in modo logico, cioè nel modo in cui un computer, come si può dire, raccoglie le informazioni, raccoglie le istruzioni. Ti faccio una citazione da Ritorno al futuro, quando Doc parla con Marty e dice: tu non pensi quadrimensionalmente? Questo sì. Fa sì che tu possa pensare algoritmicamente, cioè sì, l'analisi di un problema qualunque, che potrebbe essere: vado alla spesa a fare il mercato, e lo definisci con un algoritmo. Esatto, ma infatti di solito per ad approcciare il discorso si fa tipo ho gli ingredienti, ma poi scrivimi passo per passo che cosa devo fare, oppure le indicazioni stradali, per cui mi trovo qui, devo andare lì, dimmi che passi devo fare per arrivarci. Queste sono le prime due i primi due approcci che si usano per far capire come funziona un algoritmo, per poi poterlo tradurre in una cosa più informatica, diciamo così. Alla fine, quindi, dicevo, questo linguaggio ragionamento logico, perché comunque ti anche a separare le varie cose, i vari problemi contenuti in uno grande e ad approcciarli singolarmente. Come dicevamo prima, capire come individuare gli errori, perché poi alla fine, se qualcosa non funziona, devi ritornare indietro e vedere quello che hai fatto. Ti aiuta quindi a visualizzare, allora, intanto ti aiuta anche a lavorare in team, perché ti aiuta a come si può dire, separare le cose che vuoi fare e poi a riunirle con quelle che hanno fatto altre persone. Di sicuro a concentrarti su un determinato problema. Per esperienza devo dire, con i bambini non è sempre facilissimo, perché si distraggono molto facilmente. Per cui non so cosa possiamo dire, che dà anche una certa disciplina, perché c'è questa cosa di fondo, per cui poi alla fine proprio perché la programmazione in generale ha delle regole abbastanza ferre, poi ogni linguaggio c'ha le sue, il punto e virgola, l'indentazione eccetera, però comunque devi stare su dei binari, perché se scantoni poi alla fine smadonni la grande, come a me succede molto spesso. Il programmatore che non smadonna non è un programmatore, perché tanto a qualunque livello di difficoltà vai, cercherai sempre di fare un pezzetto di più e quindi alla fine da qualche parte ti incarti, magari non ti incarti per la per il punto e virgola, ma ti incarti per il puntatore della memoria al puntatore della variabile che punta a un'altra cosa e qualche cosa salta. Qui ho raccontato il mio odio sconsiderato per i puntatori in C. Guarda, io non ci penso neanche. Ecco, no, aggiungerei al fatto della concentrazione. I bambini adesso hanno difficoltà a concentrarsi perché hanno una marea di stimoli contemporanei e continui. E lo vedo anche io. Cioè, io ho quasi 40 anni e la concentrazione, quando devo fare una singola cosa, me la devo imporre io. Devo chiudere tutto, perché se lavori al computer e ce l'hai là sotto Twitter, l'Insta Messaging, ed è un casino. Secondo me, cominciare con i bambini a insegnare loro, a parte l'arte del concentrarsi, che gli serve non solo per queste cose, ma anche per fare bene a scuola, per nelle attività loro. Cioè, un bambino che fa sport e non si concentra nello sport che fa, non lo farà mai bene. A me piace di questo approccio il fatto che il bambino impari, e l'adulto anche, perché non è detto che siamo tutti quanti dei bravissimi programmatori nelle cose base. È giusto che si impari a approcciarsi ai problemi con un aspetto algoritmico e non con un aspetto vediamo se così va e poi se non va ci penso. Soprattutto perché una volta fatto l'algoritmo resta valido per sempre. E qui torna sempre la solita cosa del programmatore che è pigro. Assolutamente. Il programmatore medio ha il culo pesante. Lui fa cose una volta sola e le fa bene. Di conseguenza... Diffidate dai programmatori che dicono di non essere... qui si dice mandroni, ma adesso non mi viene, comunque degli scansafatiche. Ecco, diffidate dai programmatori che dicono di essere attivissimi, io qui o là. Non è vero. Io personalmente credo che un programmatore non debba essere uno di quelli che è attivissimo, faccio le cose anche 4 volte per farle meglio. No. Sbaglia. Diciamo che le regole della programmazione sono: io devo risolvere un problema qualunque, che caspita ne so, devo leggere la temperatura di Londra da un sito, mi faccio la procedura una sola volta, la faccio bene e dico anche: guarda caso, adesso facciamo in modo che la procedura legga la temperatura di qualunque Londra, non è più schiantata nel codice, ma è una variabile. L'ho scritto una volta, tutte le volte che mi servirà in qualunque altro tipo di software leggere una temperatura di una città, ce l'ho già. Scrivo: leggi temperatura a Milano, e so cos'è che torna, e non devo reinventare la ruota. L'algoritmo, cioè il pensare in modo algoritmico, serve anche per questo, perché tu riesci a un certo punto a staccare l'algoritmo dal problema reale e renderlo un po' più generalizzato. Ed è una cosa che secondo me fa bene, e soprattutto fa bene alla mente dei bambini piccoli, perché riesce a formattarli in un certo modo. Se loro imparano da piccoli, un approccio può essere questo, e nella vita si approcceranno sempre così. Assolutamente, sono completamente d'accordo. E soprattutto, papà e mamme all'ascolto, se in città vostra avete un coder dojo, andate a cercarlo, portate il vostro bambino e vedete che saranno grandi soddisfazioni, soprattutto per lui. Assolutamente, ma per lui, anche per i genitori, e comunque, oltre alle soddisfazioni, viene fuori anche altri aspetti, che sono quelli che dicevamo prima, cioè del lavoro in squadra, della socializzazione con altri, perché poi da lì poi si sviluppano tante cose, insomma, adesso stiamo lì a cose che probabilmente a scuola non succedono perché l'ambiente è completamente diverso, cioè lì le storie sono altre, ti fanno entrare in competizione, ma non in maniera sana. Comunque, dai, lasciamo perdere questo. Ecco. Dipende poi comunque dagli insegnanti, dalle sì, scuole, cioè, beh, certo. c'è una variabilità pazzesca. Secondo me il fatto che il bambino, e se lo fa a scuola è un'ottima cosa, impari a pensare in questo modo, gli torna comodo, perché tutte le volte che genericamente si pone davanti a un problema, non andrà a caso, analizzerà quello che devo fare, quello che devo ottenere, e troverà la soluzione. Un problema qualunque, la macchina non parte. L'algoritmo qual è? Vedo se facendola ripartire parte. Due, che cosa c'è che può bloccare la macchina? C'è benzina? Sì, no. La batteria è carica? Sì, no. C'è una spia che dà un errore? Sì, no. Ecco. Le cose base. Da questo, manca benzina, vado a prendere la benzina. È inutile che io chiami il carro attrezzi che mi porta la macchina da meccanico, mi fa spendere 150 euro, che poi il meccanico dice: guarda, ti ho messo un litro di benzina, vai a farti il pieno. Sì. E sono cose che tornano utili e comode in tutta la vita. Sì, sono completamente d'accordo. Cioè, avere un pensiero un pochino più strutturato a volte aiuta. Infatti. Allora, hai parlato di Scratch. Che cos'è Scratch? Dai, dacci un po' di indicazioni. Dunque, per andare proprio sul pratico, diciamo che voi, se steste andando ad acquistare una scatola di Lego, più o meno generica, diciamo così, cioè non quella per cui puoi costruire solo quella fra lì, ma come si chiamano? Quelle universali, no? Sì, sì, quelle sì. Comunque con tanti pezzi dentro. Oh yes, il secchiello dei sogni di ogni bambino. Che comunque dentro ha dei pezzi più piccoli, dei pezzi medi, dei pezzi più grandi, ha degli angoli, ha delle cose. Da questi blocchetti ci si può costruire diverse. Questo più o meno è il concetto. Dentro Scratch ci sono divisi per, diciamo così, funzionalità, i blocchi che servono per, diciamo che l'approccio è quello di creare delle storie, oppure di creare dei giochini con dei personaggi. Questo è l'approccio che si dà o che hanno voluto dare al linguaggio. All'interno del nostro IDE, come si chiama nella programmazione tradizionale, cioè all'interno del posto dove io scrivo il codice con aiuti, eccetera, eccetera, abbiamo questi blocchetti divisi per diciamo funzionalità, per cui io ho i blocchetti per fare il movimento, i blocchetti che mi cambiano l'aspetto del personaggio, sono dei sensori per cui se il personaggio tocca questo, tocca quel colore, avviene una funzionalità diversa, i blocchetti della programmazione o un ciclo di vari cicli, insomma, adesso non stiamo lì a specificare, perché comunque chi non sa di programmazione non ne capirebbe un tubo, operatori, variabili, insomma, tutto per dar vita a questa storia, a questo giochino. Tutto molto semplicemente perché, tra l'altro, ovviamente, non posso, per esempio, appiccicare un blocchetto con un altro con cui non c'entra niente. Cosa che probabilmente succede anche adesso, con i Lego diciamo di no, perché comunque quelli hanno un attacco universale, però probabilmente se non prendi i Lego cinesi che non hanno lo stesso passo, non ci si appiccicano al Lego originale, o sbaglio? Guarda, ormai i cinesi sono tele quali. Apro la parentesi, ho comprato in Cina il kit dei personaggi di Big Bang Theory. i pezzi sono esattamente gli stessi, ma la plastica è totalmente diversa. Quindi per montare montano, ma la qualità. Anzi, non comprate Lego cinesi per i bambini, perché secondo me non so se rispettano gli standard, se il bambino se lo mette in bocca, se non gli fa male il colore, eccetera. Quindi sì, Lego costa cara, ma sappiamo tutti che è tranquillissima. Cioè, a meno che non ingoino tutto, direi che è sicurissimo. Beh, vabbè, io direi che dare in mano a un bambino di 2-3 anni i blocchettini da uno step, loro lo dicono molto, molto, appunto, molto chiaramente, via. Insomma. Comunque, tornando al discorso, quindi si uniscono questi blocchettini per costruire quello che sarà la nostra storia, per cui ho ad esempio dentro le opzioni di movimento, fai 10 passi, ruota di tot gradi, vai avanti di così, vai avanti qui, vai lì, cioè vai a XY la posizione, oppure rimbalza quando tocchi il bordo dello schermo, perché ci sono varie possibilità. Essendo un linguaggio visuale, è difficile adesso descrivervelo sulle note della puntata, ci sono tutti i link possibili, immaginabili, e anche qualche immagine per farvi capire di cosa stiamo parlando. Quello che c'è da dire è questo, o meglio, la nascita di Scratch, dalle radici di Scratch, si sono sviluppate non distribuzioni, ma comunque altre idee legate sempre allo stesso concetto dei blocchetti. Alcune sono legate sempre al fatto della programmazione per bambini, quindi a programmare delle storie, dei giochini, eccetera. Altri sono pensati per a noi che piace tanto Arduino and Company, ci sono anche edizioni di Scratch dedicate alla programmazione di Arduino. Quindi una di queste si chiama, per esempio, che io ho usato molto, S4A, che se non sbaglio è sviluppata in Spagna, dove c'è un'università molto attenta su queste cose qua. E si programma blocchetti, una cosa da sottolineare, ovviamente questi linguaggi a blocchi, essendo un attimino, come posso dire, elementari, quello che non hanno è la possibilità di integrare librerie esterne, o meglio, il 99% non ha la possibilità, quindi posso fare l'accendi spegni del LED, posso leggere un valore, posso far muovere un motore, tutto quello che vogliamo. Se mi capita lo schermo OLED da 1,3 pollici, e questo non ha nessun riferimento, assolutamente, ne sono assolutamente certo di questa cosa, e un pochino ti odio, ma non importa. Non ci possiamo appiccicare la libreria per farlo funzionare, questo è la cosa fondamentale. Beh, cioè, direi, a meno che chi ha sviluppato la libreria non abbia sviluppato i suoi blocchettini da importare. Infatti, è quello lì, perché linguaggi hanno la possibilità che chi ha sviluppato la libreria sviluppi il blocchetto che mi consenta di essere appiccicato all'altro codice che io scrivo tradizionalmente con linguaggio a blocchi. Questa è la possibilità. Io vorrei aggiungere una cosa per gli ascoltatori che magari ascoltano il podcast mentre fanno le pulizie, mentre sono in macchina, mentre sono in treno o in altri posti. Allora, la puntata è introduttiva perché in effetti, se noi vi facessimo vedere come funziona la cosa, abbiamo parlato 25 minuti, il podcast, facendovi vedere, si ridurrebbe a 2 minuti e mezzo, direi, circa. Sì. Perché in effetti spiegare come funzionano questi blocchettini a voce non è proprio facile. Fate così, quando tornate a casa, prendetevi le note del podcast, ci sono almeno 15 link, forse anche di di più con tutte le cose. Per esempio, su scratch.mit.edu c'è un elenco di giochi. Prendete un gioco qualunque, ci cliccate sopra, lui parte e poi c'è guarda dentro e vi fanno vedere come è sviluppato. Io esatto. vi dico, stavo guardando un gioco simil Pong, quello con la barretta sotto che è la palla che rimbalza, e sono un totale di 8 macro gruppi di blocchettini. Sì. Cioè è veramente... io quando programmo faccio sempre così, parto da un programma già fatto, vedo cosa fa e vedo come è scritto, e poi in base a quello che mi serve prendo i pezzi che mi tornano utili per il mio progetto. Ho sempre fatto così e funziona, e penso che nel mondo, da quando c'è internet, tutti quanti facciano così. Inventore del Ctrl C Ctrl V, santo subito. Esatto. E questa cosa qua, se voi vi aprite un progetto qualunque fatto in Scratch, senza partire dal foglio vuoto che può mettere l'ansia, partite dal progetto e cominciate a modificarlo e vedete l'effetto che fa. E vi accorgete che con veramente 10 click e trascina potete fare il mondo, ma proprio il mondo, e su qualunque piattaforma. Perché noi ora Scratch funziona su web, funziona. Scratch c'è nella distribuzione base di Raspberry. Esatto. Voi prendete il Raspberry, lo installate, date a vostro figlio la tastiera, il mouse e un monitor, gli dite questo è Scratch, lui può cominciare. Se volete lavorare con lui, ovviamente voi dovete sapere qualche cosa prima, giusto per non impallarvi. Ma se lo mandate a un coder dojo e poi lui dice papà voglio lavorare, voglio programmare, 50 euro, se avete già una tastiera, un mouse e un monitor, avete fatto tutto. Tastiera mouse o televisore di casa, perché comunque anche vai, sì. Magari oggi come oggi ci sono diversi bambini che hanno il televisore in camera, addirittura gli butti dentro l'HDMI e ciao, è finita. Guarda, non lo rivedrete mai più uscire dalla camera. Nelle note dell'episodio vi metto anche il link a una tastiera Logitech wireless, che è la K400 se non vado errato, è una tastiera piccola con un trackpad integrato. Raspberry, televisore, tastiera sulle gambe, fatto. Dunque, per riprendere un attimo il filo del discorso, se siete gente che con l'Arduino ha a che fare, vedetevi anche lo Scratch per Arduino, perché è ottimo il fatto di, dopo aver visto come si fa sul computer, visualizzare o rendere tangibile qualcosa per il bambino è sempre un toccasana. Cioè vedere veramente il LED che si accende piuttosto che vedere sullo schermo ha due effetti diversi. L'ho testato personalmente, per cui ve lo consiglio. Tra l'altro il sito si chiama snapforarduino.rocks, cioè sono dei fottuti geni anche con il nome del dominio. Sì, dai. Neanche che ci fosse il dominio di primo livello rocks. Sì, il dominio appunto a rocks. fantastico. Quindi abbiamo detto che c'è per Raspberry, c'è anche per altre piattaforme, ovviamente. Ma Scratch c'è per qualunque cosa? Sì, praticamente c'è su qualunque c'è piattaforma tutto. Voi abbiate, cercate Scratch c'è: Windows, Linux, Mac, web, qualunque cosa. Secondo me c'è anche Scratch in app per Google Chrome. Guarda, c'è Scratch sicuramente per Android, su questo sono sicuro. Perfetto. Quindi anche con il tablet. Sì. Secondo me, una volta che vedete vostro figlio che si diverte, vorrete farlo. No, aspetta, perché poi è in fondo quello che sarà la cosa buona per chi pensa, per fare i giochini, per fare... Aspettate un attimino, arriviamo fino in fondo e vi farò vedere che non è proprio roba per... cioè per bambini sicuramente, però si può creare anche qualcosa di buono anche per i non bambini, insomma. Ecco. C'è anche per i nerd, quelli liberi che vorrebbero saldare, insomma. Esatto. Allora, di linguaggi a blocchetto per Arduino, ce n'è uno in particolare che voglio menzionare, che si chiama Visuino, che è una cosa un po' particolare, non è semplicissimo come può essere Scratch, però si avvicina molto, ha una community abbastanza poderosa, moltissimi instructable fatti dall'autore stesso e da altri. Alcune volte riesce ad integrare anche delle librerie fatte in C con dei file particolari che sono ricompilati, eccetera, eccetera. Ci darei un'occhiata anche lì, perché è veramente interessante. È probabilmente più potente di uno Scratch per Arduino, per una, cioè quello semplice, diciamo così. Oltre a questi linguaggi che poi alla fine non ci danno la possibilità di capire effettivamente quali sono le istruzioni un programmatore, diciamo, tradizionale darebbe al fare quello che noi riusciamo a fare con i blocchetti, ci sono delle, come possiamo chiamare, varianti di Scratch. Come si può dire, il reverse, non so, come una trasformazione, come la vogliamo chiamare? Vedi quello che c'è dietro, cioè vedi il blocchettino che codice ha scritto. Vi ricordate FromPage? Qualcuno si ricorda quella schifezza di Microsoft per fare i siti web? La traumatica, ecco. Esperienza, esatto. Perfetto. Se con FromPage voi prendevate e dicevate: senti, fammi una tabella di 4 colonne per 10 righe, lui vi disegnava la tabella, voi passavate alla parte codice, potevate vedere cos'è che FromPage aveva scritto per poter fare quella funzione lì. Con Scratch è la stessa cosa. Blocchetto if, se voi prendete il blocchetto se e mettete luce ce n'è, allora LED spegni, vedete dietro come Arduino, io parliamo di Arduino, potremmo anche parlare di qualunque altra cosa, scrive: guarda, leggi su quel sensore quanta luce c'è, se il valore è più alto di, allora vai sul LED e nel codice di Arduino. Attenzione a un dettaglio piccolo, il codice tipo di sola lettura, perché se voi andate a modificare questo codice, ovviamente il blocchetto non ha più senso di esistere, perché voi smontate la costruzione base e quindi è difficile tornare indietro dal codice al blocchetto. Mettiamola così: sul blocchetto voi potete fare da 0 a 50, con il codice molto più tranquillo sulla tastiera potete fare da 0 a 10.000. Dunque, per questo tipo di approccio, cioè quello per cui io vorrei vedere quello che c'è scritto dietro, c'è un progetto interessante fatto Adafruit con la collaborazione di Microsoft, che vi permette di utilizzare un certo hardware che loro commercializzano, ma che probabilmente funzionerebbe anche con altro, adesso non ho approfondito particolarmente la questione, e che vi permette di programmare questo hardware che ha sensori, LED vari ingressi e uscite tramite blocchetti, e vedere trasformati questi blocchetti in linguaggio JavaScript. Linguaggio JavaScript con cui voi potreste programmare direttamente l'hardware, quindi potete scegliere farlo con i blocchetti, farlo con JavaScript. Una volta che avete fatto con i blocchetti, potete vedere quello che sarebbe il risultato in JavaScript. Personalmente mi sembra una cosa ottima, anche perché per esperienza personale io ho imparato a programmare in Visual Basic per Office, facendo le macro e poi vedendo cosa veniva fuori dalle macro. Sì, dopo che scopri la macro che cosa scrive, ti guardi i comandi e come tutte le volte dici: ma porca miseria, potevate scriverlo con 12 righe di meno. Anche, esatto. Sempre. Allora, le macro funzionano, ma quando vai a scrivere il VBA normale ti accorgi che in effetti si possono fare le cose fatte meglio, sì. Ma vuoi mettere il vantaggio di fare la macro cliccando qua, fai questo, certo. Copia, incolla, bla bla bla, e lui ti scrive il codice dietro. Assolutamente, ma infatti a me è stato utile sicuramente, perché comunque non avendo possibilità di impararlo in altri versi, se non forse da qualche libro, ma che probabilmente all'epoca era anche tutto in inglese e non c'avevo tanta voglia. Quindi dicevamo, c'è questo progetto, ripeto, trovate tutti i link nelle note dell'episodio, in questo caso anche con delle immagini che vi fanno capire a che cosa ci riferiamo. Quindi dicevo, oltre a fare i giochini, abbiamo detto, si fanno i giochini, si fanno le storielle per i bambini, si possono fare anche progettini con Arduino, con altro hardware, eccetera eccetera. Il linguaggio si può utilizzare anche per disegnare in 3D. Madonna, ma sto guardando ora il link. È una figata, guarda, pazzesca. Questo è stata una scoperta. Non credo lo sia popolarissimo, però io lo trovo stupendo. Anche perché poi con i blocchetti fai il tuo disegno e lo puoi tranquillamente trasformare in un file che puoi stampare in una stampante 3D. Quindi non... torniamo al discorso che fai da 0 a 50, invece magari sapendo usare un CAD fai da 50 a 10.000. Su questo io sono... Però la cosa per capire alcune dinamiche del disegno in 3D, eccetera, secondo me andar benissimo. C'è bestiale, ma è proprio bello, cioè praticamente tu fai con i blocchetti, muoviti così, sali, cambia colore, cambia materiale, ma che figata. Adesso non mi dire che ti devi comprare la stampante 3D, però no, io uso free Labster, faccio fare a loro, io gli do il CAD e loro stampano. Quindi questo è anche per tornare al discorso di fare qualcosa di concreto, cioè lo fai lì con i blocchetti, poi prendi e lo stampi anche in un Fab Lab, dove ti pare, con la... Sì, ecco, i Fab Lab, se ne avete vicini, sfruttateli, sono delle miniere di risorse, sia di macchinari che di competenze, fanno workshop di continuo, e secondo me non è fatto apposta per il maker, proprio come definizione di maker, ma banalmente avete bisogno di fare, che caspita ne so, io mi sono comprato una lametta nuova, la lametta nuova non ha il portalametta. Vai al Fab Lab, chiedi aiuto e ti fai il portalametta di legno, di plastica stampato in 3D, qualunque cosa. Cioè, anche per delle cose molto molto pratiche, dovete fare un lavoro particolare nel vostro studio, nella vostra camera, e madonna, devo tagliare con la sega circolare per il legno, fa un sacco di polvere, andate a un Fab Lab. Certo. Lì hanno il laboratorio, le attrezzature, ovviamente dovete pulire, ma non fate tonnellate di polvere che vi trovate per casa poi per i mesi successivi. Certo, ma soprattutto avete attrezzature che probabilmente a casa non potreste mai permettervi. Esatto. Quindi chiudiamo la parentesi del Fab Lab, andateci. Ok. Madonna, ma sto guardando anche il link dopo che hai messo. Ma dove li hai trovati sti cosi? No, beh, questi sono anni e anni di ricerche. Allora, nella mia testa c'è tutto un progetto. Ho cominciato a programmare con... che poi non è altro che Turtle. È quello che dici alla tartaruga. Scrivi, avanti di 5, sì, non scrivere più, ruota di 90 gradi, bla bla bla. Ecco, con questo fai così, lo porti a chi ha le macchine per ricamare elettroniche e ti trasformano il disegno in un ricamo. Esatto, quello è l'obiettivo di quello che si chiama tartan. Poi alla fine, anche nel nome stesso c'è l'obiettivo. Quindi, saltando adesso ad un altro argomento che riguarda comunque sempre i blocchettini, c'è un tizio che, se non mi sbaglio, è anche un giovincello, che ha customizzare la configurazione del sistema operativo del Raspberry Pi. Ecco, cioè, qua ci voleva Mario. Sì, per dire che cosa, perché... No, perché Mario questa cosa qua se l'è fatta, non mi ricordo con quale script. Praticamente, suppongo che tu qua possa modificare i pezzi che hai... Ecco, sì, fantastico, madonna, è bellissimo. Perché, allora, il discorso qual è? Che qua tu puoi, intanto... che tu possa dire anche quali pacchetti vuoi all'interno del... Sì, Mario ha fatto una roba simile con uno script, sai che Mario è amante della shell? Suppongo che Mario abbia fatto stessa non cosa... Non dire che Mario è amante della shell, perché sembra brutto. Allora, della spazio shell, non dell'apostrofo a shell. Adesso Mario ci odia tutti e ci tirerà giù il sito appena sente la puntata. Vabbè. È carinissimo. Praticamente tu puoi configurarti il tuo Raspberry come vuoi tu. Tra l'altro, customizzare i pacchetti dentro puoi anche già dargli la configurazione che vorresti che, per esempio, l'interfaccia di rete ha quando il sistema operativo viene poi installato e avviato. Quindi praticamente non ti serve più monitor, tastiera e mouse per la prima per quando lo installi appena masterizzata la ISO. Ma credo che se fa attenzione a tutti i parametri, eccetera, credo che non ci sia proprio bisogno, anche perché comunque ti abilita il VNC direttamente, perché guarda, qui già dall'immagine che abbiamo incollato nelle note della puntata, vedo che c'è on first boot enable VNC server at boot. Tu hai già il VNC server attivo, al massimo dovrai inventarti qualcosa se hai lasciato il DHCP, avere l'indirizzo a cui collegarti, ma alla fine, insomma, è abbastanza semplice. È fichissimo, veramente bello. Bravo, amica, hai trovato informazioni bellissime. anche questo è stato una di quelle di ricerche. Anzi, questo è stato un risultato da smadonnamento, questa ricerca. Perché ho detto, ma porca vacca, solo io ho problemi a configurare sta roba. Bene, bene, bene. E direi che l'ultimo pezzo è quello che io amo più di tutti. Perché poi, cioè, anche, allora, questo è il pezzetto del dulcis in fundo che dicevo prima, cioè arriviamo alla fine che poi vedrete che non è tutto per bambini. Allora, sulla base di Scratch, cioè comunque della programmazione a blocchetti, Google stesso, se non mi ricordo male, no, il MIT stesso, in programmazione, sì. Viva il MIT, viva il MIT, dopo Banzi, viva il MIT. Diciamo che anche Banzi al MIT qualcosa secondo me gli deve, ma comunque sì, ma senza dubbio. Quindi dicevamo, il MIT in collaborazione con Google ha messo su un ambiente web che consente con i blocchetti di sviluppare applicazioni per Android. Io vi posso dire... Signori, funzionano. Assolutamente. Io vi posso alla dire grandissima. Per premessa, un paio di applicazioni, poi personalizzandole per diverse aziende, queste sono buttate dentro dei terminali che vanno in giro tutto il giorno, sono un centinaio di installazioni, non ricevo mai una chiamata, ve lo posso sottoscrivere, mai ricevo una chiamata se non per errori fatti a chi poi si occupa della gestione, però sono diciamo che è il contrario di Frontpage faceva del codice che faceva schifio praticamente, mentre questo fa del codice che sembra veramente una roccia, cioè preciso, mai un errore. Quel giochino per bambini, ma qui si fanno anche delle cose abbastanza serie. Dimmi, vai. Scusa se ti interrompo. App Inventor, forse stavi dicendo la stessa cosa, parla con qualunque sensore del vostro telefono, cioè potete, a parte verificare se c'è internet, accedere a internet, fare delle chiamate web, scrivere su un database, ogni applicazione ha la sua repository di dati, e poi potete leggere il GPS, potete leggere gli accelerometri, potete leggere la luminosità, un sacco di cose. Io mi ero fatto un sistema per geolocalizzare le ambulanze, l'app sul telefonino, il telefonino ogni X scrive su un database in remoto dove diavolo sta, una cartina sempre con Google, tu hai il disegnino delle ambulanze sul territorio. Penso di averci messo 2 serate in tutto. Sì, guarda, dopo che torniamo sempre al concetto che se non hai neanche in mente quale sia o cosa sia un ciclo, cosa sia una variabile, eccetera, magari è meglio iniziare con Scratch e vedersi un attimino di queste cose qui, perché poi lì secondo me alcune cose sono date per scontate, non che non sia una cosa logica, però ci sono delle cosette che è meglio capire, cioè capire che cos'è una variabile è fondamentale, altrimenti non riesci ad arrivare a fare qualcosa di concreto. Però anche lì ci sono decinaia e decinaia di esempi di persone che hanno fatto, di ragazzi, anche perché questo è usatissimo in un sacco di scuole, eccetera, eccetera, da poter andare a vedere. Vi posso anche dire che l'applicazione che voi fate con App Inventor può tranquillamente andare sul Play Store. Per cui... Ah sì, davvero? Io mi ero fermato al... Ma come lo testo? Praticamente loro ti fanno l'APK, tu nel telefono dici puoi installare gli APK anche fuori dallo store, certo. Quindi fate poi attenzione, QR code, voi fate la foto al monitor con il QR code e l'APK ce l'avete sul telefono, e aggiornandolo, cioè è fatto anche bene, perché se fate l'app e salvate dei dati e vi accorgete che non funziona, aggiornando l'app i dati, a meno che voi non abbiate rivoluzionato la struttura dati, i dati restano. Assolutamente, funziona come funziona un aggiornamento di qualsiasi app. Cioè sì, è una roba fantastica, ovviamente sì. Per Android, non per Android. iOS non funziona, lasciate perdere, per iOS dovete programmare in Swift. Sì. E se qualcuno sa che esiste uno Scratch per Swift, me lo dica, perché potrei, certo, essere interessato. Come dicono quelli in una trasmissione più famosa della nostra, se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, noi siamo qui. Sempre. Allora, coglierei l'occasione per sì, dire dove siamo, così non resta sempre nella coda che tutti quanti si scocciano. Saltano. Ecco, ci trovate su Telegram, che è il posto dove chiacchieriamo di più. Ci trovate su Telegram, se cercate Gcookies c'è il gruppo. Ci trovate su Facebook, ci trovate su Twitter, ci potete mandare una mail. Ci trovate su qualsiasi piattaforma di podcast, ma siamo un po' ovunque. Diciamo che se volete avere una risposta veloce e soprattutto partecipare alla community, il gruppo Telegram è la cosa che noi... Con l'occasione del gruppo Telegram voglio personalmente ringraziare un utente del gruppo Telegram che si chiama Fiorenzo per avermi fatto un grosso favore, e lui sa perché. Molto molto bene. No, ma su queste cose, in questo gruppo, ora stiamo divagando un po', ma poi torniamo sulla parte finale di Appinvert. Si chiacchiera molto, a tratti è difficile stare dietro, perché se uno lavora 8 ore, torna e ha 742 messaggi, diventa macchinoso. Ma per esempio io ho trovato spunti per un post sul mio blog. C'è qualcuno che sta lavorando per fare un archivio di tutti i nostri cazzilli che mettiamo nel gruppo Telegram, perché signori cari, nel podcast ve ne diciamo 3 o 4, nel gruppo Telegram se cercate con l'hashtag cazzillo viene fuori il mondo, e non è il mondo porno, ok? No. Se partecipate siamo tutti molto molto, si è tra nerd, e tutti quanti sappiamo che i nerd quando parlano con i non nerd si annoiano, e tra di noi ci esaltiamo uno con l'altro, siamo proprio fatti così, non c'è niente da fare. Che bella gente. Dicevamo di App Inventor, che questo è il nome, App Inventor versione 2 per essere proprio precisi, vi consente di creare una dalla A alla Z. Ci sono anche qui community, non vi dico perché potete immaginare quanto può essere vasta. Ci sono persone che sviluppano blocchettini e funzionalità aggiuntive sia a pagamento. C'è anche la possibilità, allora App Inventor di suo è una roba che gira sul web. C'è la possibilità di prendersi tutto il repository, perché tutta questa roba qua è open source. Ho sbagliato, mi pare di non aver detto che tutta questa roba qua è open source, quindi vedete un attimo voi come siamo messi. Prendersi tutto il repository, buttarselo sul PC e lavorare in locale. Ci sono anche persone che hanno preso il repository, lo hanno, come possiamo dire, integrato di funzionalità. Me ne viene in mente una, che è quella che riguarda la possibilità di inserire i banner dentro l'applicazione, che poi magari sparate sul Play Store, però queste di solito sono a pagamento. Comunque ci sono funzionalità che vengono sviluppate a pagamento e gratuitamente, molto molto interessante. Una delle ultime come si può dire varianti di App Inventor è una variante per l'IoT. Praticamente è stato arricchito con una libreria che serve per funzionalità IoT. Vi invito a approfondire, perché io non ho avuto molto tempo di farlo, però vi fornisco anche il link nelle note dell'Ambaradan. Ah, nel sito c'è per esempio ha scritto che parla con il Bluetooth low energy, quindi voi dall'app sul telefonino parlate con Arduino 101 o con l'ESP32 o con l'ESP32. Me lo aspettavo, non ho fatto in tempo a dirlo, ma me lo aspettavo. Tra l'altro mi pare che Arduino 101 morirà, perché è basato su Intel Galileo, e Intel ha detto che abbandona Galileo. Sì, ha poca vita, diciamo così, in agonia, dai. Sì. No, è proprio che anche Intel ha detto Galileo, no, basta, appunto, morto. Tra l'altro ho visto che non ce ne sono neanche disponibili sul sito di Arduino, per l'ora. Il sito di Arduino ha uno stock è imbarazzante, a dire poco. Quando ho preso il Maker Fox, forse sono stato uno degli ultimi 10, perché poi è scomparso per 2 mesi ed è tornato settimana scorsa, insomma, una roba veramente difficile. Bene, dunque, l'ultima noticella che volevo dire, anzi, sono due. Una scoperta ieri e testata oggi con mia figlia, che si è divertita tantissimo. Allora, la prima è questa. Per chi volesse poi passare al codice scritto, vi consiglio di andare su un sito che è in Inghilterra, che è www.sniff.org.uk, che non ha a che fare niente con gli stupefacenti. Si chiama Sniff, che aiuta proprio trasformare i concetti che voi avete appreso con i blocchetti in codice scritto. Punto. Questo ve la butto. L'altra cosa carina che ho trovato ieri e che ho testato con mia figlia, che però è una 11-12enne un po' traviata dal padre, per cui magari è un po' più avvezza a queste cose. Allora, c'è un sito che si chiama, se non mi sbaglio, praticamente è un sito dove il codice di vari linguaggi, Python, c'è JavaScript, quindi si può programmare in vari linguaggi, praticamente si usa il codice per far fare ad un omino le missioni, del tipo nelle prime missioni si è all'interno di un labirinto, quello che dicevamo prima qual è, che una delle prime cose che si fa è quella di fare un algoritmo per fornire indicazioni ad una persona che deve uscire o deve andare da qualche parte. Varie istruzioni, fate muovere l'omino finché viene fuori dal labirinto. Dopo questo si usano i cicli, perché il labirinto presenta magari due percorsi identici uno dopo l'altro, si fa un ciclo per scrivere una sola volta le istruzioni, e si continua così. L'eroe acquisisce dei poteri, per cui poi combatte con la spada, insomma ci sono varie cose. Mia figlia si è divertita, si è portata addirittura via il PC oggi dai nonni per continuare a fare qualcosa, per cui io ci darei un'occhiata. Ce ne sono anche altri di questi siti qua, uno se non mi sbaglio si chiama qualcosa tipo code, game code, non mi viene esattamente il nome adesso, però l'ho trovato un pochino meno adatto per bambini più piccoli, forse per bambini un pochino più grandi, perché lì si tratta già di è un pochino più complicato secondo me. La cosa buona è che c'è la possibilità di avere la possibilità di programmare con più linguaggi differenti. Per esempio mi viene in mente che c'è anche il VB.NET ha più esperienza con sono rimasto zitto perché Code Combat è bellissimo. Sì, poi ha una grafichetta, site molto carina, cioè è fatto bene. Ma pensa a te, ti ripeto, non mi viene con Code. Peraltro poi lo cerchiamo, lo mettiamo. Uno dei code famosi è Code Academy, ma quello è proprio una cosa per imparare a programmare, non ha quella cosa lì. Se avete un figlio anche che ha 16 di 17 anni, secondo me è fighissimo sto... Anche l'altro è bellino, l'altro sì, molto missioni spaziali eccetera, questo è più sul fantasy. Bello, bello, bello. Io aggiungerei invece, per quelli proprio più piccoli, c'è un oggetto, è un oggetto fisico che si compra, che si chiama Cubetto. Cos'è Cubetto? La seconda edizione è stato, io la prima volta che l'ho visto, l'ho visto forse all'Arduino Day di 2-3 anni fa. Cubetto cos'è? Sì. Uno scatolotto con mi pare 16 dove si possono mettere delle frecce avanti, gira di 90 gradi, gira di 180 gradi eccetera. Lui parla con un robottino su ruote, praticamente voi fate un percorso e dite a vostro figlio devi andare da qua, e lui, mettendo questi piccoli tag colorati, fa sì che il robottino si muova di conseguenza, ed è una cosa fighissima. è proprio bello e funziona secondo me anche per i bambini di 3 anni. Sì, è abbastanza studiato per bambini relativamente. Allora, io il link per acquistarlo l'ho visto su Amazon, ma per il momento non è disponibile. Però è veramente, veramente carino. È un gioco fatto bene. È un gioco partito dal basso, non è prodotto da chissà quale grande tra l'altro sono italiani, azienda. Quindi... Sì, sì, sì. Non vorrei dire fesserie, ma sono di Torino, però potrei anche sbagliarmi. Può essere, sono gente che però studiava in Inghilterra. Comunque, interessantissimo, proprio sì. carino se avete bambini e volete fare loro qualche gioco, è veramente un bellissimo. Guarda, giusto per buttare dentro un altro cazzillo, la programmazione fatta questa volta credo esclusivamente, perché se non mi ricordo male non c'è l'applicazione per Android ma c'è solo per iOS, tutta la generazione di Sphero, che è una specie di robottino a palla, viene fatta sui tablet Apple e trasferita poi al robottino che riesce a muoversi. Non so se in Italia li vendano, ma da poco, a parte che non costano pochissimo, questo è sicuro. Da poco hanno fatto un Saitama Queen che è una cosa, è spettacolare da vedere. Gente che veramente di robotica, secondo me, qualcosa la... Ma l'ho visto! È quello dove la macchina è fatta di un polimero tale che... puoi anche farla sorridere. Bravo, esattamente quella. Signori, questo è un posto pericolosissimo per i vostri soldi, ok? Pericolosissimo. Ah, io l'ho detto sul canale, l'ho detto che io sono bravo a far spendere i soldi alla gente. allora, la tastiera, adesso la cerco un attimo, quella che vi dicevo prima. Allora, Logitech. $400, sì. È proprio così e costa 32 euro. Allora, bene, nel frattempo io ho trovato invece i link a Sphero, ci sono anche sull'Amazon italiano e sono praticamente gli stessi personaggi che hanno fatto il drone di BB-8. Sì, sì, vero, vero, vero. Quello che è fantastico. Senti, ma lo diciamo quanto costa il Saitama Queen? O aspetta che lo voglio vedere. non lo vedo su Amazon, dov'è? Ah, sì, devi cercare Lightning McQueen. Lightning McQueen. Sphero Lightning McQueen. Guarda, è bellissimo, giuro, non, senza offendere nessuno, è bellissimo. Vediamo un po'. Ah, vabbè, ma costa solo 350 euro. Che cosa vuoi che sia? Che cosa vuoi che sia? Scusa, no. Cioè, non ce la posso fare a dare a un bambino in mano una macchina da 350 euro. Tra l'altro, è proprio grande. Piccola, Cos'è? Un 1:18? Sì, è probabile. Bestiale. Sì, è uno dei cazzini più costosi che abbiamo mai proposto, suppongo. No, forse costava di più il cazzillo quello come si chiama, del robottino che vi abbiamo proposto a Natale scorso. Ah, sai che non lo so, forse no, forse costava meno, forse dici? Sui 200 e 250. Comunque di Saitama, se cercate, c'è una recensione su D-Day e vi fa venire l'acquolina alla bocca, cioè proprio volete comprarla, punto. Che libidine, ragazzi. Dai, passiamo a un cazzillo un attimo più economico. Sì, dai, facciamo così. Allora, c'è Giuliano che nel gruppo Telegram mi ha detto: ma guarda, è uscito questo coso, ed è nient'altro che una Wemos montata su un PCB che ha un display OLED da 1,3 pollici. L'ho pagata? Quanto l'ho pagata? 7 dollari e mezzo. E allora, ieri ci ho passato la serata intera a far funzionare il display. Allora, è fighissimo perché il display OLED consuma poco, perché consuma solo i LED che si accendono, non ha retro illuminazione. Non so quanto possa durare il display sempre acceso con una batteria. Io contavo di usarlo come mini display che a circolo mi fa vedere le temperature che legge in casa fuori e i consumi elettrici. E all'ordine si può scegliere se farlo con LED bianco o con LED blu. Io l'ho scoperto per caso e mi è arrivata quella lì bianca, per fortuna. E, a me piace tanto il blu. Sai che ho letto nelle note, puoi scegliere, e io non ho visto dove. Bene. Vabbè, niente. Allora, su AliExpress vi mandiamo il link. In questo momento ci sono 99.940 pezzi disponibili, quindi non è un problema approvvigionarsi. Mi raccomando, la documentazione non esiste, dovete fare riferimento all'unico link che c'è sul sito dove lo acquistate, oppure al primo commento delle persone che lo hanno comprato, che è tradotto in italiano dal russo e vi spiega un attimo come si usa. Per chiudere, dovete ricordarvi che tutta la documentazione delle ESP è data per Node, com'è che si chiama, Giuliano? Node MCU. Quello, ecco, se usate l'IDE di Arduino dovete leggere la numerazione dei pin corretta, perché per esempio il D0 di Node bla bla bla, anzi il D1 per Arduino è 5, il D2 è 4, il D3 è 0. Ricordiamoci che dentro l'IDE di Arduino, se tutto è installato correttamente, puoi anche utilizzare non il 5, non il 4, ma il D0, D1. Non funziona. È la Madonna. Io ieri ci ho perso le ore e non ha funzionato. E poi ho scoperto che c'erano questi numeretti, ma tra l'altro avevo già bestemmiato su questa cosa perché l'avevo già visto la prima volta che ho usato le Wemos Mini. Perché anche lì sono diventato scemo per parlare con il sensore di temperatura e ho scoperto poi che dovevo passare alle indicazioni di Arduino. E, le librerie si trovano su GitHub, poi funziona dopo le innumerevoli bestemmie, quindi fate un po' di attenzione. Vi mettiamo nelle note dell'episodio una cosa che Giuliano mi ha detto che esiste, io non sapevo: c'è uno sketch che fa lo scan di tutto quello che è connesso sul bus seriale. Yes. E quindi voi sapete gli indirizzi e i pin di tutto quanto. Ce l'ho appena ingollato. Oh, molto bene. Quindi... ah, perfetto, l'hai incollato direttamente nel documento. Vediamo poi come gestirlo, perché per ogni riga ha messo un punto elenco. Sì, sì, infatti. Bene, bene, bene. Direi che abbiamo finito la parte di, come si chiama, di informazione tecnica. Vi ricordiamo che i nostri contatti ve li abbiamo già detti prima e quindi non ve li ricordiamo. Se volete metterci 5 recensioni su iTunes o su Spreaker, siamo contenti, anzi non 5 recensioni ma 5 stellette con una bella recensione. Se volete chiamare i vostri amici nerd e dire: sentite queste due o tre persone, a seconda se Mario c'è o no, che parlano di cose nerd, fatelo, perché magari aumentiamo le persone che ascoltano e aumentiamo le persone sul gruppo Telegram. Se volete sostenerci, è ancora aperta la campagna Compra un adesivo. Praticamente abbiamo fatto due tipi di adesivi, ce n'è ancora un po' disponibili, se non mi sbaglio, vero Giuliano? Sì, qualcuno c'è. Perfetto. Noi a fronte di una donazione di 6 euro, noi vi spediamo l'adesivo. Che cosa facciamo di questi soldi? Per esempio, io ho comprato l'Arduino Maker Fox per un progetto che poi proporrò qua nel podcast. Giuliano farà altrettanto, penso, con l'ora. Sì, probabilmente. Ancora, insomma, siamo in fase di pensiero. Studio. E se voi partecipate a noi, salvate un po' le spese, perché non sembra, ma comunque mandare avanti un podcast un po' di spese le ha. E le nostre spese normalmente sono delle donazioni ai progetti su cui ci appoggiamo. Ogni anno facciamo una donazione almeno a archive.org, dove sono memorizzate le nostre puntate, e una a Audacity, che è l'applicazione che usiamo per registrare. Il microfono di Giuliano l'abbiamo comprato con i soldi del podcast, eccetera. Se comprate su Amazon e entrate su Amazon con il nostro link sponsorizzato, così a noi arriva tipo lo 0,2% di quello che acquistate. Tantissimo. Se comprate scarpe ci arriva il 15%. Esatto. Quindi comprate tante scarpe. Portate la moglie su Amazon, fatele comprare lì le scarpe, così ci arrivano un sacco di soldi in più. Sulla tecnologia hanno tagliato tantissimo. Assolutamente. Ho dimenticato qualche cosa? Non mi sembra. Abbiamo detto tutto? Abbiamo detto tutto. Mi raccomando, passatevi un buon Ferragosto. Speriamo di uscire per Ferragosto, ma non ci giurerei, perché Mario è in ferie, non so se riesce. Quindi se sentite la canzone prima di Ferragosto, la canzone, buongiorno, buonanotte. Se sentite la puntata prima di Ferragosto, buon Ferragosto, se no spero che abbiate mangiato un sacco di cose buone. E ci aggiorniamo, penso, poi per settembre-ottobre, perché poi io vado in ferie a settembre, quindi le cose diventano un pochino più difficili. Chissà, potrebbe esserci uno speciale. Voi ovviamente non avete capito dove vado in vacanza, vero? Assolutamente. Non era chiaro per niente. E non vado a Berlino. Okay? Ottimo, ottimo. Bene, allora direi che dopo questa oretta e un quarto circa di puntata vi salutiamo e ci sentiamo alla prossima puntata. Fateci sapere se siete riusciti a far giocare i vostri figli o i nipotini con Scratch. Siamo veramente, veramente curiosi. E se avete bisogno di aiuto, siamo lì su Telegram, che di solito vi aspettiamo. C'è sempre qualcuno, senza dubbio. Grazie per l'ascolto e alla prossima. Un saluto da Torino. Ciao. Ciao a tutti dalla Sardegna, da Giuliano. Ciao.